Di Giovanni Minoli. Silvio Berlusconi cerca di contrastare l'avanzata di Salvini e della Lega Nord, esprime il suo niet a Matteo Salvini, verso il quale non ha mai manifestato molta simpatia. La leader di Fratelli d'Italia ha lanciato la proposta di un listone unico per le amministrative, facendo storcere il naso a Salvini. Se Berlusconi non potrà tornare in campo, parla di sé in terza persona il leader di Forza Italia. Il centrodestra dovrà trovare qualcuno al suo interno, il governatore del Veneto Luca Zaia si sta comportando molto bene. L'unico possibile candidato alla premiership sono io. Matteo Salvini, irritato, stoppa l'opo ostile di Berlusconi, che ha varcato virtualmente il portone della Lega. E Zaia conferma: basta con questa manfrina, lasciatemi governare il Veneto in pace, la Lega un candidato ce l'ha già e si chiama Matteo Salvini. Allora, buongiorno, bentornati a Mix24. Il centrodestra è a caccia del suo leader, mentre il centrosinistra, come sappiamo, nella crisi, nelle convulsioni del PD, il suo momento drammatico. Giancarlo Giorgetti, che è vice segretario della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Berlusconi ha detto, l'abbiamo sentito, vedrebbe bene Luca Zaia a Palazzo Chigi, ma la Lega è stata durissima, ha detto che è inutile seminare zizzania. Davvero è seminare zizzania? Innanzitutto non ha detto semplicemente quello. Se uno va a vedere la dichiarazione, dice: ma se non ci fosse, se non potessi io, vedrei bene Zaia. Quindi partiamo dicendo, certo, che prima di tutto Berlusconi pensa a Berlusconi, sì, in subordine, diciamo così, per derivata manda un messaggio e poi per derivata crea zizzania. Questa è la realtà. Sì, ecco, e diciamo così che tutti si sono concentrati sulla seconda parte. Certo, naturalmente, perché è quella che fa prima più polemica, ha ragione, ecco, giustamente. Però anche il fondatore del Bossi, il fondatore della Lega, continua a dire bisogna fare pace con Berlusconi. Va bene, ma noi non è che vogliamo fare la guerra a Berlusconi. Mi sembra Berlusconi che faccia un po' delle provocazioni a casa nostra. Dopodiché, quello che noi affermiamo come principio è che le leadership... ognuno se le sceglie a casa sua. No, che vengano dal basso, non imposte dall'alto. È per questo che noi siamo arrivati. All'inizio mica pensavamo che le primarie fossero la panacea di tutti i mali. Però ci siete arrivati. Ci siamo arrivati perché se viene legittimato dal nostro popolo è giusto riconoscere questa... anche perché in un processo rifondativo probabilmente... Naturalmente. Senta Giorgetti, però in realtà c'è chi dice invece, più malizioso, che dietro all'investitura di Zaia c'è un disegno che è quello di guidare un movimento moderato che superi Forza Italia. Si parla di un'azione diplomatica del presidente del Veneto per accreditarsi in Vaticano, negli Stati Uniti. Berlusconi l'ha scoperto e ha solo smascherato questo disegno. È fantapolitica questa? No, non credo che sia fantapolitica. È chiaro che per quanto riguarda la Lega noi siamo usciti da una fase in cui eravamo, diciamo, gli alleati poveri, un po' in qualche modo sopportati perché venivamo dalla campagna, magari puzzavamo un po', a essere il movimento politico leader con le idee che in questo momento possono piacere o no, sono quelle che vanno di moda in tutto il mondo e che in qualche modo dettiamo i ritmi e i tempi della politica. E quindi bisogna che Berlusconi se ne faccia una ragione, secondo voi, insomma? Ma secondo me se ne hanno fatto una ragione un po' tutti quanti, credo che anche Berlusconi se ne debba fare una ragione, ma lo dico in modo non polemico né conflittuale, perché la realtà dei fatti... Che intanto se non siete uniti la possibilità di vincere diminuisce molto, naturalmente. Questo è un dato di fatto, dopodiché lo ribadisco, noi siamo i primi che in qualche modo abbiamo detto che Trump non era un mostro, tutti quanti ci pensavano dei pazzi, adesso però la realtà è questa qua. Ci rendiamo conto che con Berlusconi, con l'elettorato di Berlusconi, dobbiamo fare i conti per poter vincere, però naturalmente su basi nuove e non con le minestre riscaldate. Quindi il candidato alla premiership, per essere semplici e chiari, per voi resta Salvini, noi lo del centrodestra. Ma è un'esclusiva assoluta pregiudiziale oppure è una cosa sulla quale poi eventualmente si può anche discutere? Guardi, nel febbraio del 2000 2017 la Lega propone Salvini e non lo impone, lo propone. Poi facciamo le primarie, se milioni di cittadini vanno e dicono Salvini, noi prendiamo Salvini. Se dicono un'altra cosa, se lei si candida, dice, questa è un'idea, potrebbe essere un'idea. A votare Minoli, noi cosa vuole che le dica? Accettiamo Minoli. Mamma mia, sareste messi male, certo. Senta, senza questa scelta però di primarie di Berlusconi, voi andrete da soli o in coalizione con Fratelli d'Italia, nell'ipotesi che Berlusconi non accetta le primarie, perché questa è l'ipotesi? Noi andremo alle elezioni con coloro che accettano le primarie. Le primarie è un metodo, poi ci sono le questioni di sostanza, l'atteggiamento dell'Europa e dell'euro. Infatti parliamo di quello. Diciamo che chi accetta, chi accetta il programma, certo, il programma, certo. E quindi Salvini, che ha chiarito che la linea è quella del no euro, certo. Pensa che però il no euro sia compatibile, si discute molto, no? Prima sembrava una cosa impossibile, adesso ci sono vari centri studi che cominciano a dire ma forse l'uscita dall'euro, ma chissà, non è che sia poi una cosa così tragica, insomma perfino il governatore della banca della BCE, Draghi, ha avuto una posizione, poi se l'è rimangiata, ma insomma si oscilla molto su questa cosa dell'euro. Ecco, lei crede personalmente, essendo anche un esperto, che sia compatibile con lo scenario economico dell'Italia? Noi da sempre, e la Lega ha votato praticamente unica contro l'ingresso all'euro, abbiamo ritenuto incompatibile la moneta unica europea con quella che è la realtà economica italiana. Un'economia duale, tale per cui forse il nord riusciva a reggere la moneta fare, tedesca, ma mentre il sud non lo poteva fare. Tanto è vero che il sud oggi è conciato purtroppo malissimo, molto peggio, certo. Anzi la situazione è veramente, di cui non parla praticamente nessuno, ma siamo al disastro totale. Certo. Detto questo, la moneta unica europea era, diciamo così, una follia che sotto il profilo economico e poteva avere un senso sotto il profilo politico. Credo che ne prendano atto tutti oggi. Non si discute se secondo me l'euro abbia un futuro, si discute e si discuterà sempre di più come uscire da questo, tra virgolette, caos. Cioè da come ripensare questo caos, diciamo. Il problema sa qual è, Minoli? È che i tedeschi hanno usato la moneta a loro vantaggio e in questo momento sono molto più avanti di noi nello studiare come uscire da questo caos, naturalmente a loro vantaggio. Cioè, pensi che lo dice anche Prodi, che i tedeschi sono più avanti nel cercare la soluzione, certo, per uscire dall'euro? Mentre noi qui siamo qui a fare il dibattito dicendo questi qui della Lega sono fuori di testa, sono fuori dalla storia e propongono cose irrealistiche. No, la realtà è che l'euro comunque si sfascerà rispetto a quello che è adesso. Certo. Il punto è vedere quale sarà il punto di caduta. Il punto di caduta nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Ecco, ma quindi il Trump che dice i tedeschi che non usano il loro surplus commerciale per sviluppare l'Europa, dice una cosa che è davanti agli occhi di tutti. Questo è assolutamente vero. Dopodiché che Trump vede un po' con sospetto il ruolo geopolitico internazionale rinnovato dalla Germania, certo, e anche usa questo argomento in qualche modo per fare una sorta di divide timper, insomma, per mettere in Europa un po' tutti contro tutti. Se qualcuno pensa e ripensa perché è nato l'euro e i timori che qualcuno anche in Italia aveva rispetto allo strapotere che inevitabilmente avrebbe riavuto la Germania, anche questo mi sembra abbastanza evidente. Cioè, sono punti di equilibrio che richiederebbero leader di alto livello in grado di, come dire, di riflettere su scenari di lungo periodo anche. Concordo. Senta, intanto però, per parlare di breve periodo, in Europa Juncker ieri ha presentato degli scenari, 5 scenari, ma nessuna idea. Cioè, dentro questi scenari c'è l'atteggiamento sostanziale di un notaio che fa una fotografia di una situazione, ma pur essendo il capo della Commissione, in realtà non indica una strada, è così? Insomma, è un'Europa che sta per esplodere. Facciamo un esempio. esempio concreto, non per fare demagogia né populismo, ma se lei esce dallo studio della radio e va al mercato e chiede alla gente chi è Juncker, nessuno sa chi è Juncker, nessuno l'ha votato e non si capisce perché Juncker debba decidere onestamente sulle sorti e la vita di queste persone. Sì, ma se Juncker fosse un genio e avesse delle idee, uno potrebbe dire non so chi è, ma è bravissimo. Certo. E invece manca anche questo secondo pezzo del ragionamento. Appunto, quindi mancando tutte e due le circostanze, credo che la situazione sia parecchio complicata. Senta Giorgetti, in Veneto però intanto si terrà un referendum per l'autonomia. Sono prove di secessione di facto del Nord? No, non sono prove di secessione del Nord, sono semplicemente... Però è una cosa forte. Ma no, sono prove di democrazia. Il problema è un altro, è che da 20 anni credo che non è patrimonio solo della Lega, perché lei vedrà che il voto che prenderà il sì all'autonomia in Veneto andrà ben oltre il consenso della Lega. Il problema è che lo Stato... al Veneto, ma anche alla Lombardia o a chiunque abbia chiesto autonomia e responsabilità, ha sempre risposto picche, anzi, con delle legnate di tipo fiscale che in qualche modo tutti ne hanno contento. Senta, onorevole Giorgetti, comunque il quadro politico si sta complicando molto. La Lega che chiede le elezioni subito, però mi pare che si stiano allontanando alla velocità della luce. Per essere realisti, l'ha capito, no? Sì. Questo, diciamo che si voterà. Sì. A dire la verità, ci siamo sentiti qualche tempo fa, ma noi l'avevamo capito il 5 di dicembre. Che non si sarebbe votato. Ma nei paesi seri le dimissioni sono vere, le conseguenze sono inevitabili. Senta, il PD abbiamo visto che nel giro di pochi giorni è una scissione, l'accelerazione di un'inchiesta giudiziaria che tocca il padre, il collaboratore più stretto dell'ex segretario. Voi non avete attaccato a testa bassa il PD, ma che impressione ha di tutto questo? Ma non vediamo perché dobbiamo attaccare a testa bassa se si stanno distruggendo da soli, quindi lasciamo procedere nel loro brodo. Ecco, in Francia, però, anche in Francia, lo scontro tra magistratura e politica è diventato veramente durissimo sul caso Fillon. C'è un problema di equilibri democratici che non riguardano solo l'Italia, ma come si vede sono in discussione un po' dappertutto. Sì, assolutamente sì, anche perché non c'è soltanto Fillon, anche la Le Pen ha avuto un attacco. Appunto, esatto, sì. Il problema è che tutto il sistema della democrazia liberale che si fondava sulla separazione dei poteri è saltato in quel paese. Cioè la magistratura è un potere che invade gli spazi della politica appena può, questo è il tema? Sì, ma semplicemente anche il potere legislativo non esiste più, perché i parlamenti non contano più niente, se fanno le leggi poi sono i giudici a applicarle come vogliono loro. Ma la politica dovrebbe, ma li applicano come vogliono loro anche perché sono fatte male, perché sono in genere frutto di compromessi e quindi il margine di arbitrarietà cresce moltissimo. Certo, è assolutamente vero. E la crisi della democrazia rappresentativa come l'abbiamo conosciuta negli ultimi, diciamo così. Però col no al referendum, facendo saltare la legge di prima, adesso si tornerà verso le coalizioni che fanno questo tipo di leggi. Ma questo non è connesso alla riforma costituzionale, ma a una legge elettorale fatta in modo strampalato e che è stata ovviamente smontata. Insomma, la politica dovrebbe arrivare prima della magistratura con legislature, con leggi chiare e non interpretabili, ma solo applicabili, è così? Sono assolutamente d'accordo, per questo servono politici che abbiano delle idee chiare e mandano dei messaggi chiari, non equivoci né grigi, e soprattutto di politici che poi magari non cambiano traiettoria politica dopo essere stati eletti. Grazie onorevole Giorgetti, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Mario, insomma, mi pare che la Lega bollata come un partito populista, invece in realtà sulla questione settentrionale è più attuale che mai. Insomma, Bossi qualche ragione ce l'aveva, no? Ma scherziamo, certamente Bossi è stato gigante in questo, aveva individuato bene il problema che è ancora vivo. Basta vedere i dati sul PIL e la distribuzione di reddito nel paese, due paesi, forse perfino tre. Tra le cose che ha detto Giorgetti ce n'è una secondo me molto interessante, che è quella poi sul PD. Che è un cambio di atteggiamento rispetto a cose dette certo, in passato. Sì, lui adesso sentiremo lui l'onorevole Boccia. Per legarla anche appunto all'intervento di Boccia adesso. Lui ha detto una cosa saggia, ha detto non c'è bisogno di fare niente, si stanno autodistruggendo. In passato invece abbiamo assistito a polemiche molto molto dure. E tu Pietrangelo, insomma, tra questo nord e sud distrutti dall'euro secondo Giorgetti. Con un aggravante, e cioè che il Sud ha anche di fatto un controllo totale del malaffare, della criminalità e del disagio sociale che il Nord non conosce, facendo l'esempio di Giorgetti su Juncker che nessuno conosce al mercato. Al Sud nessuno se ne sta fregando degli assetti istituzionali, hanno bisogno della realtà. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Inchiesta sugli appalti Consip, arrestato l'imprenditore Campano Romeo e accusato di corruzione, sequestrati 100.000 euro. È stato già trasferito nel carcere romano di Regina Coeli Alfredo Romeo, l'imprenditore Campano, arrestato su richiesta della Procura di Roma. Perquisita l'abitazione dell'ex deputato Italo Bocchino, che era suo consulente. Le manette Alfredo Romeo se le aspettava dalla notizia della confessione del super dirigente Marco Gasparri, che al PM di Napoli Woodcock ha detto: sì, è vero, ho preso soldi da Romeo. È l'ultimo sviluppo dell'inchiesta sugli appalti della Consip, che vede indagati tra gli altri il ministro Luca Lotti, il padre dell'ex premier Tiziano Renzi. Con Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera, nostro ospite quasi fisso, lo saluto con piacere, kingmaker della candidatura del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla segreteria del PD. Buongiorno. Ecco, buona giornata. L'arresto di Alfredo Romeo, l'inchiesta Consip, sconvolgono i giochi all'interno del PD? No, confermano quello che diceva Buttafuoco poco fa, con una piccola appendice, è che la corruzione purtroppo, soprattutto dove passano i grandi flussi pubblici, in tutta Italia, non è solo al Sud, purtroppo non sono cambiati alcuni metodi. Io sono molto amareggiato da ieri, perché ora, indipendentemente dai risvolti politici che mi auguro non ci siano, sono sempre garantista, certo, non cambio certo idea oggi, al limite questo per fortuna per la politica italiana, è del Renzi giustizialista dei tempi della cancellieri che non c'è più traccia, ma qui siamo tutti garantisti sempre e comunque. Sono amareggiato perché Consip era nata per far altro. Consip era nata come una grande centrale d'acquisto della pubblica amministrazione per ridurre italiana, per ridurre i costi e per consentire alle amministrazioni pubbliche di risparmiare tanto. Invece mi pare di capire che non, forse un po' risparmiano, ma insomma qualcosa resta da qualche parte. Questo Gasparri dovrebbe spiegare perché ha preso soldi, se è vero che ha confessato. Mi auguro che non sia già più dipendente di Consip, e mi auguro che chi doveva vigilare su Gasparri non sia più in Consip. Senta, ancora capito cosa fa l'amministratore delegato, oggi dice che gli hanno chiesto di restare tranquillamente. Padoan sembrerebbe, ho letto un'intervista, non ricordo su quale giornale, che che l'amministratore delegato sarebbe stato sostenuto da Padoan nel restare, però questo non so se è così. Ecco, il suo candidato invece, Michele Emiliano, candidato alla segreteria del PD, si è ritrovata in qualche modo coinvolto in questa vicenda della Consip. Lotti gli ha mandato dei messaggi sul telefonino raccomandandogli di ricevere una persona, Carlo Russo, indagato sulla Consip. Ecco, Emiliano ha fatto bene a rendere noti gli sms? Emiliano è stato fermato per strada da un giornalista del Fatto, che aveva informazioni di cui Emiliano non era in possesso, diciamo, d'impeto gli ha chiesto: lei conosce questo signor Russo? Ovviamente Emiliano, insomma, non si ricordava nemmeno chi fosse, certo, questo signor Russo, e perché risulta tra gli atti di questa inchiesta che questo Russo aveva millantato più volte l'amicizia con molti politici, sì, e poi gli altri bisognerà verificare. Vabbè, d'accordo, insomma, comunque l'ha fermato, e tra questi Insomma, questo mi insomma dava... lui gli ha dato l'SMS. Siccome Emiliano è un uomo di Stato, oltre che un magistrato. È un magistrato, dove... quindi li ha conservati. No, io penso che con gli iPhone oggi ognuno di noi, se non cade per terra e si rompe, l'iPhone resta tutto. E ha fatto la ricerca davanti al giornalista. E l'ha trovata. È questo qui, ecco. Non nulla a nascondere, guarda. Mai visto, mai incontrato. Lotti mi ha mandato questo SMS. Così è andato. Ecco, in questa semplicissima ricostruzione logica e psicologicamente chiara, c'è chi vede invece un complotto contro Renzi. Lei che ne pensa? Siamo in vista delle primarie, insomma. Renzi dovrà semplicemente rispondere al Popolo Democratico nelle prossime settimane di quello che ha fatto in questi 4 anni di segreteria, di come la sua idea di partito non si è mai realizzata, perché le storie raccontate nel 2013 alla fine non si sono trasformate in un partito moderno, e soprattutto quale idea di paese, perché Renzi ha già governato, è stato segretario del partito e ha governato il paese per 3 anni. Certo, comunque la gara verso questa segreteria, obiettivamente, Consip o non Consip, si è incattivita molto negli scontri personali, ma non nei contenuti. Allora in qualche modo il ministro Orlando, che chiede con forza una conferenza programmatica prima del congresso, c'ha le sue buone ragioni, dice è da 20 anni che non discutiamo. Giusto, l'avevo chiesto anch'io, io mi auguro che nelle mozioni dei 3 candidati si percepisca chiaramente l'idea alternativa, per esempio, che c'è sul lavoro, l'idea alternativa che c'è del rapporto nuovo con i fattori della produzione, l'idea profonda che c'è di fisco per noi. Beh, il fisco oggi è centrale proprio anche a livello globale. Non c'è dubbio, la progressività dell'imposta per noi è un valore, per Renzi e mi pare anche per Orlando, che l'ha sostenuto nel governo con le sue proposte, penso all'IMU sulla prima casa sotto i ricchi, e quella roba lì per Renzi era un valore al contrario rispetto alla proposta che farà Emiliano. E quindi lei è per la conferenza programmatica prima del congresso? Assolutamente sì. Lei ne ha parlato con Renzi di questa storia della Consip? Le è capitato? No, niente. Senta, gli iscritti, però, gli elettori del PD sono smarriti. Pensi a quello che sta capitando a Napoli sulle iscrizioni nelle liste per votare. Siamo di nuovo all'arrembaggio? Siamo a Napoli, purtroppo. Questa cosa che le sezioni, i circoli si riempiono solo quando c'è una scadenza, che quasi sempre coincide con la selezione di chi poi dopo eserciterà il potere, a me rattrista molto, perché significa che la politica è ancora vista come un mezzo per esercitare il potere, o per alcuni ancora per controllare i flussi di denaro. Perché non sia così, è necessario dare un buon esempio anche. Non c'è dubbio. Ecco, senta, il suo candidato Emiliano, se risultasse terzo alle primarie, in caso di ballottaggio, lei appoggerebbe Andrea Orlando o Renzi? Emiliano arriverà primo. Sì, lo so, no, sicuramente arriverà primo, ma però nel gioco dei sé. Rinunci perché si considera indegno. Non lo faccio il gioco di sé, perché Emiliano vince e cambia. Cioè, quindi lei tra Andrea Orlando e Renzi non sceglie. Aveva scelto la conferenza programmatica. No, ma se la mette così è ovvio che... Che scegliamo Andrea Orlando. Orlando ha un'idea di partito diversa rispetto a Renzi. Condivide anche lui l'idea di separare la figura del segretario da quella del candidato premier. Insomma, quindi vince Emiliano, ma eventualmente voterebbe Orlando, diciamola così. Diciamo che vince Emiliano. Naturalmente. Vince Emiliano e che Orlando potrà dare una mano a Emiliano. Senta, ma secondo lei, un'ultima cosa, secondo lei Renzi dovrebbe ritirarsi, vista la situazione che si è creata dalla corsa alla segreteria, oppure sarebbe una sciocchezza? No, deve continuare, deve provare a far capire fino in fondo che le sue idee hanno una qualche attinenza con la realtà. Io penso che siano fuori dal tempo, che sia fallita la la rottamazione alla fine è stata uno slogan vacuo e senza sostanza, e che deve provare fino in fondo. Ha prodotto un altro partito, la rottamazione? Ha prodotto un'idea di partito che oggi non condivido. No, però un altro partito, voglio dire, i scizionisti. Ah, certo. Quello secondo me è stato un legame, sì, ma è il risultato anche di una visione autocentrata della politica di Renzi, nel senso che lui ha festeggiato ogni volta che è uscito qualcuno, da Fassina a Civati, dall'emarginazione di Letta, passando per Bersani, da Lema. È molto triste tutto questo. Detto ciò, io vorrei che Renzi facesse la sua battaglia e che in caso di sconfitta restasse nel Partito Democratico, perché ha comunque tanti sostenitori che pensano... Ma c'è anche tante energie, e penso anche delle buone idee. Non c'è dubbio, che io vorrei che fossero messe però a fattor comune, vorrei che non fossero le idee di Renzi e basta, ma le idee di un soggetto collettivo. Che possono a volte essere anche oggetto di confronto, emendate, integrate, modificate. Con Renzi il problema è sempre stato: si fa così o questo? Oppure niente, va bene, è finito quell'epoca. Grazie, onorevole Boccia. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS, intanto su Twitter, su Facebook, vi abbiamo posto due domande: chi è il leader del centrodestra? E l'altra, e Renzi dovrebbe rinunciare alla corsa alla segreteria del PD in attesa di chiarezza sulla vicenda Consip? Continuate a rispondere sulle nostre pagine Twitter e Facebook, ripeto i numeri 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli SMS. Mario, che dici? Vince Grillo. Vabbè, con tutto questo dibattito assurdo. Tu, Pietrangelo. Questo dibattito è fatti gravi. Vince Grillo, punto. Vince la realtà. E la realtà, ovviamente, è fuori da questa chiacchiera politica. Ma sì. Non so se sarà Grillo, come dice Mario, comunque arriverà qualcuno. Scusa, ma tu c'hai. Potrebbe essere anche un drammatico aumento del non voto. Anche. No, vedremo. Scusa, però Giovanni, ma le prefetture un numero lo dovranno portare. I fatti giudiziari ci interessano un po'. Il fatto politico è che noi abbiamo il padre di Renzi che smistava telefonate, appuntamenti con uno, e Luca Lotti che fissava un appuntamento. Vabbè, non però, è roba politica. Il dettaglio di Boccia sulla Cancellieri, quello sulla Cancellieri, uno se è garantista lo deve essere sempre. E in quel caso lui, ma soprattutto la Boschi in aula fu esplicita e chiarissima: si dovrebbe dimettere. Sì. Per ragioni di opportunità istituzionale, sono queste le sue, e se io fossi al suo posto, anche se non ho fatto niente, mi dimetterei. Sono parole che restano inchiodate nella roccia. Ergo, per opportunità dovrebbe ritirarsi dalla gara alle primarie del Partito Democratico. Applico il codice Boschi. Ah. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli SMS, pubblicità. Mix 24. Bene, ricordo, abbiamo chiesto su Twitter chi fosse il leader del centrodestra, il sondaggio naturalmente in corso, finora per il 61% il leader Salvini, 18% Berlusconi, per il 14% la Meloni, solo per il 7% Zaia. Però Fabrizio Comin scrive su Twitter che è D'Alema il vero leader del centrodestra, perché come porta voti al centrodestra lui non li porta nessuno. Sul secondo sondaggio per il 57%, naturalmente in corso e i numeri sono piccoli ancora, Renzi dovrebbe rinunciare alla corsa della segreteria del PD, e per Luigi Vanno invece non dovrebbe farlo, ma dovrebbe fare luce sul caso Romeo. Sì. Tu cosa dicevi? Un piccato ISO e 8, immagino un renziano di ferro, ci sottolinea, anzi ce l'ha con me, vorrei ricordarle che la Cancellieri era ministro della giustizia, poi ci sono tre puntini e un così. Che la ministra della giustizia fu difesa da Caselli, che Giancarlo Caselli, e disse non ha fatto niente. Va bene, cosa ci fai sentire oggi? Eccola. Might make out nobody's there. It's not that we're scared, it's just that it's delicate. Allora? Allora alla fermata Cornelia oggi una ragazza ripassava a mente tutti gli alberi già in fiore, quelli che ha incontrato nel cammino per arrivare alla metropolitana, ha poi preso la deviazione per Circo Massimo e uscita, ha raggiunto il pratone ampio, quello che sta dentro il corpaccione di Roma, e siccome lei è Core, cioè Demetra, Proserpina, ha cosparso ogni filo di delicatezza e insomma è primavera. Meraviglia. In effetti sono giornate stupende. Belle, speriamo, sì, che duri. Non so se dappertutto, io dico a Roma. Ma Roma è belle. Bolla Mario. Sì. Ah, che pezzo. Vabbè, questi sono i Genesis. Mi imbarazza perfino presentarli, perché questo è Abacab. Giovanni, vabbè, l'Italia secondo me è un gran laboratorio di quello che sarà probabilmente un break up dell'Eurozona in qualche maniera, e ne vedremo delle belle anche sulla scia di queste inchieste in particolare. E si vota in Francia, ieri è successo di tutto, lo hai evocato in una domanda appunto su Fillon, l'inchiesta, il rapporto con la magistratura. Non sappiamo ancora chi sarà più favorito da tutto questo, anche perché la reazione di Fillon è stata veemente, e quindi vedremo poi l'impatto che avrà sui sondaggi. Una cosa è certa, si vota in Olanda tra pochissimo, 15 maggio, e è in testa il partito nazionalista di Geert Wilders. Sapete che io detesto parlare di populismo, perché è una parola che viene appiccicata addosso per intanto termini negativi, e poi viene usata per liquidare la pratica burocratica, diciamo, con un certo disprezzo. E però in realtà fa primo partito nei sondaggi, probabilmente non governerà perché non riuscirà a fare governo di coalizione, ma secondo me, vorrei anche una tua opinione, una di Pietrangelo, si sta presentando un problema serio. Allora, Le Pen, primo partito in Francia, non andrà probabilmente a l'Eliseo per effetto dell'Union Sacrée. Però, ma questa è la tua idea, però, Mario, è che ripeti sempre, però non è automatico. Non è, so bene che non è automatico, però guardiamo. Però diciamo, allo stato attuale, questo è, però abbiamo già visto, no? Abbiamo visto la Brexit, abbiamo visto Trump. Quindi abbiamo visto cose sorprendenti, esatto, andando nella realtà, come dice Pietrangelo. Quindi bisogna vedere che cosa succede. Però allo stato attuale è questo. Wilders cosa succede? Fa primo partito e non va al governo. Cioè, noi abbiamo un paradossale effetto per cui i partiti Non governa. Per cui chi vince non governa, per una convenzione escludendo, ma si direbbe, per cui la cosa grave è che noi avremo uno scollamento tra la realtà sociale. Non do giudizi di merito, faccio un'analisi, diciamo, più obiettiva possibile. Abbiamo la realtà sociale scollata dalla realtà istituzionale. Potremmo avere. Esatto. Allora, tu capisci che questa è una cosa, secondo me, la realtà sociale alla fine troverà il modo di vincere. Speriamo. Cioè, troverà un modo, non so quale, saranno coalizioni minoritarie. Perché in realtà, invece di risolvere la crisi, così la aggravi, così distruggi quel che resta. La democrazia sta dimostrando sempre di più i suoi limiti, in realtà, di rappresentatività governante, perché la rappresentatività non basta, bisogna produrre una rappresentatività governante. Perché alla fine Wilders vince, ma non vince. Salamino. Primarie, che passione! Che passione per le primarie! Tutti dicono I love you al Partito Democratico. Che bel bacin! Sarà per il fascino di Matteo Renzi, sarà per sentirsi partecipi della forfora di Luca Lotti, ministro dello sport, e sarà per poter sperare di incontrare in sezione, scusate, nei circoli del PD, chi? sarà forse nella speranza di incontrare Maria Elena Bostic, ma tutti vogliono iscriversi alle primarie del Partito Democratico, prendono tessere e diventano così post comunisti, post boy scout, post Giglio Magico, post Lapidiani e anche postamat, visto che col postamat ogni tessera Amiano nel napoletano viene pagata 10 euro, una vera e propria operazione San Gennaro. Non è che però chi si iscrive al Partito Democratico, che per inciso, Giovanni, diciamolo ai nostri ascoltatori, il Partito Democratico in fondo che cos'è? È il partito di Barack Obama, il partito di Tony Blair, il partito di Bill Gates, e quindi succede al contrario, e cioè chi va lì viene risarcito con 10 euro, ed cioè... è tutto il mondo a dire I love you al partito degli 80 euro, dei voucher e dei gelati Grom, cittadini dello Sri Lanka, cingalesi, esquimesi, portoghesi, neozelandesi, libanesi, gloria, perfino catanesi! Perfino catanesi si sono presentati in massa per avere la tessera dell'uomo che tutto il mondo ci invidia, a Librino, il quartiere di Catania, dove il 4 dicembre il no al referendum ebbe percentuale del 90%, aprono circoli del Partito Democratico come niente, tutti pentiti d'avere fatto piangere il cuoricino di Matteo. E a Librino adesso in massa vogliono farsi perdonare e anche brindare. E stuppano fante a profusioni. Giovanni, scusa, ma ti ricordi quando a un certo punto... Sasso mi ha ricordato una cosa, Pietro Angelo. Io l'assumerei per la campagna elettorale. Ascolta, no, ma c'è una storia bellissima. Ti ricordi quando quello dei gelati Grom? Non mi ricordo. Sì, no, sì, dai, un bravissimo ragazzo. Sì, di Torino, bravo ragazzo. Che ha conquistato il mondo. Che, sì, ma voglio dire, l'ho presentato. Guido Martinetti. Ecco, Guido Martinetti, il quale è venuto qui a fare faccia a suo malgrado fu poi preso come simbolo. Ma suo malgrado, gli ha regalato il gelato a. Sì, ma dentro Palazzo Chigi con i lancieri di Montebello, sì. Per lui è stata un'operazione come marketing straordinaria. Ah, scusa, abbiate pazienza, no, però l'hanno trasformato, ripeto, in una sorta di guru della nuova sinistra. Ma non siamo delle belve, me lo ricordo bene. Siete solo dei giornalisti, è vero, hai ragione, bolla. Ergelato, vabbè. Bella questa. Vabbè, insomma, ragazzi, se c'è ancora molto da lavorare, direi, per costruire il domani, bisogna farlo oggi. E Montecitorio lavora? Benissimo, direi. Oggi no, quindi si riuniscono domani, ci sarà più o meno il deserto, anche perché devono fare una cosa veramente fondamentale alla Camera domani, cioè lo svolgimento di interpellanze urgenti, che è un modo elegante per dire che non hanno nulla da fare. Al Senato ci sono un po' di cose, ci sono delle discussioni che sarebbero anche importanti se poi approdassero a qualcosa di fattivo, cioè reddito minimo garantito, assistenza alla povertà, e ci sono un po' di commissioni d'inchiesta sui crack bancari. Giovanni, è tutta, ti dico la verità, è ancora fermo, ma è tutta una gran perdita di tempo. La legislatura è già finita. Io intanto vorrei rispondere a un nostro ascoltatore che non si firma e mi dispiace, però mi dà un buon consiglio. Dice: caro Minoli, sarebbe ora di invitare anche qualcuno che spieghi i vantaggi dell'euro e dell'Europa unita, non solo i difetti. Beh, mi impegno, la prossima settimana lo faremo sicuramente. Dobbiamo fare una lunga ricerca, ma può darsi che lo troviamo, qualcuno che venga a dirci questa cosa. Pubblicità. Faircam Air and Ocean non conosce confini, spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta Mix 24. Heinz è stato uno dei primi a capire il mercato globale. È stato anche uno dei primi a capire il valore del marchio, quanto fosse importante il nome e quanto fosse importante la fiducia del consumatore per costruire un'azienda. Lines Company fu una manifestazione della sua visione del mondo e si riassume nel motto «Fai del bene nonostante gli altri». Fondata nel 1869 negli Stati Uniti, la Heinz Company è oggi una multinazionale del settore alimentare presente in 200 paesi, protagonista qualche settimana fa della mancata fusione con Unilever, che avrebbe portato il colosso Kraft Heinz a un fatturato di 85 miliardi di dollari, secondo nell'industria alimentare solo alla Nestlé. Padre di questa multinazionale è Henry John Heinz. Cresciuto in Pennsylvania nella seconda metà dell'Ottocento, inizia la sua fortunata avventura imprenditoriale vendendo il rafano che la madre coltivava nell'orto. Poi il contatto con la contabilità nella fabbrica di mattoni del padre, ma sono le coltivazioni della madre che lo stimolano di più. Quando fonda la Heinz Noble Company sono rafano, sottaceti e crauti i prodotti commercializzati, ma è una salsa particolarmente gustosa che si ottiene dalla cottura del pomodoro a determinare il suo successo. È il ketchup prodotto dal 1876 con una formulazione segreta e venduto in bottiglie di vetro. È la fortuna di uno dei pionieri d'America. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulla rivista Top del Mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. American Journal of Epidemiology, dicembre 2016. Associazione tra nascere prematuri e minore altezza da adulti nelle donne. Forse abbiamo trovato una giustificazione al fatto che qualche donna è un po' bassina. Sono state studiate oltre 200.000 donne svedesi con un'età media di 26 anni. 663 erano nate molto premature, prima della 32esima settimana di gestazione. 8.002 erano nate moderatamente premature tra la 32esima e la 37esima settimana e 190.000 donne erano nate a termine. Bene, l'età gestazionale influisce sull'altezza, così, care amiche, avete qualche motivo per dire vabbè, non è colpa mia, tanto che si calcola che 1.1 mm per settimana di gestazione, così che le nostre svedesi nate molto premature, quelle prima della 32esima settimana, erano praticamente 2 cm più corte di quelle nate a termine e 1 cm più corte di quelle nate, diciamo, moderatamente premature tra la 32esima e la 37esima settimana. Quindi un altro buon motivo per nascere a termine, quello che tutti gli ostetrici del mondo cercano di portare, non a caso, la gravidanza oltre la 39esima-40esima settimana. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi oggi? Oggi una canzone per chi, pur conoscendo la strada opportuna, preferisce percorrere quella malfamata. Giorgio Gaber, E allora dai. E allora dai, e allora dai, le cose giuste tu le sai. E allora dai, e allora dai, dimmi perché tu non le fai. Il denaro non è tutto, è una frase che si dice, nella vita c'è ben altro che può renderti felice, e lo dicono tutti spesso, ricchi e poveri è lo stesso, il denaro non guarisce e non dà felicità, e allora viene dalle stelle, non importa la sua lingua o il colore della pelle, lo diceva anche il Vangelo già 2000 anni fa, finalmente siamo d'accordo, questa sì che civiltà. E allora, dai, allora, dai, le cose giuste tu le sai. E allora, dai, dimmi perché tu non le fai. Tu mi insegni che la guerra oggi non si può più fare. E le bombe di cannoni sono cose da evitare, lo si scrive sui giornali, siamo tutti solidali, che la pace in tutto il mondo salverà l'umanità.